A Saint-Pierre des Ifs salì una splendida fanciulla che sfortunatamente non faceva parte del piccolo gruppo. Non riuscivo a staccare gli occhi dalla sua carne di magnolia, dai suoi occhi neri, dalla costruzione mirabile ed alta delle sue forme. Subito volle aprire un finestrino perché nello scompartimento faceva un po' caldo e per non chiedere il permesso a tutti, siccome ero solo senza soprabito, si rivolse con una voce rapida, fresca e ridente, a me. «Non vi disturba l'aria, signore?» Avrei voluto dirle «Venite con noi dai Verdurin, oppure ditemi il vostro nome e il vostro indirizzo». Risposi «No, l'aria non mi disturba, signorina». E poco dopo, senza muoversi dal suo posto, «Il fumo non darà noia ai vostri amici?» e si accese una sigaretta. Alla terza stazione scese con un salto. Il giorno dopo chiese ad Albertine chi potesse essere. Infatti, stupidamente, ritenendo che fosse possibile amare una sola cosa, geloso dell'atteggiamento di Albertine verso Robert, m'ero messo tranquillo quanto alle donne. Albertine mi disse, con la massima sincerità, credo, di non saperlo. «Vorrei tanto ritrovarla!» esclamai. «Non preoccupatevi, ci si ritrova sempre», replicò Albertine. Nella fattispecie si sbagliava. Non ho mai ritrovato né identificato la bella fumatrice. Si vedrà del resto per quale ragione dovetti per molto tempo smettere di cercarla, ma non l'ho dimenticata. Spesso pensando a lei mi succede d'essere invaso da una voglia folle. Ma questi ritorni del desiderio ci costringono a riflettere che, volendo ritrovare quella determinata fanciulla con lo stesso piacere, bisognerebbe anche ritornare a quell'anno, cui ne sono seguiti altri 10 durante i quali la fanciulla è sfiorita. Si può, a volte, ritrovare una persona, ma non abolire il tempo. E tutto questo, sino al giorno imprevisto e malinconico come una notte d'inverno, in cui non si cerca più né quella fanciulla né nessun'altra, in cui trovare ci farebbe persino paura, perché si sente di non avere più abbastanza attrattive per piacere né forza per amare. Non che si sia ben inteso nel senso proprio del termine impotenti, e amare si amerebbe più che mai, ma si sente che è un'impresa troppo grande per quel poco di forze che rimane. Il riposo eterno ha già insinuato degli intervalli durante i quali non si può né uscire né parlare. Posare un piede sul gradino giusto è una vittoria, come non sbagliare il salto mortale. Essere visti in un simile stato da una fanciulla che amiamo, anche se abbiamo ancora il viso e tutti i capelli biondi di una volta. Non ci si può più sobbarcare alla fatica di tenere il passo della giovinezza. Tanto peggio se il desiderio carnale, invece di attutirsi, raddoppia. Per questo si fa venire una donna a cui non ci si curerà di piacere, con la quale si dividerà il letto per una sera soltanto e che non si rivedrà mai più. «Ancora nessuna notizia del violinista», osservò Cottard. L'avvenimento del giorno, nel piccolo clan, era infatti la defezione del violinista favorito di Madame Verdurin. Questi, che faceva il servizio militare vicino ad Ancien, andava a pranzo alla Raspellier 3 volte alla settimana, perché aveva libera uscita fino a mezzanotte. Ora, avanti ieri, per la prima volta, i fedeli non erano riusciti a scovarlo sul tram. Si era supposto che l'avesse perduto, ma sebbene Madame Verdurin l'avesse mandato a prendere al tram successivo e poi all'ultimo, la carrozza era tornata vuota. «L'hanno sicuramente sbattuto in guardina, non c'è altra spiegazione della sua scomparsa, diamine! Da militari, sapete, con quei tipi, basta trovare un maresciallo scorbutico!» «Se non verrà neanche stasera», intervenne Brichot, «sarà ancora più mortificante per Madame Verdurin, dal momento che la nostra gentile ospite riceve per la prima volta a pranzo i vicini che le hanno affittato la Raspellier, il marchese e la marchesa di Cambremer. Stasera il marchese e la marchesa di Cambremer!» esclamò Cottard. ma io non ne sapevo niente, assolutamente niente. Sapevo, si capisce come tutti voi, che sarebbero venuti un giorno o l'altro, ma non sapevo che fosse così imminente. Accidenti, aggiunse rivolto a me. Che cosa vi dicevo? La principessa Scherbatov, il marchese e la marchesa di Cambremer. E dopo aver ripetuto questi nomi cullandosi con la loro melodia, come vedete le cose si mettono bene, mi disse. Tanto meglio, al vostro debutto avete fatto centro. Sarà una camerata eccezionalmente brillante. E rivolgendosi a Brichot aggiunse, la padrona sarà furiosa, è proprio ora che arriviamo a darle manforte. Da quando si trovava alla Raspellière, Madame Verdurin fingeva, infatti, di fronte ai fedeli, di sentirsi in obbligo di invitare una volta i proprietari ed esserne disperata. Così, diceva, avrebbe avuto condizioni più vantaggiose per l'anno successivo e lo faceva solo per interesse. Ma sosteneva d'avere un tal terrore, di farsi un tale spauracchio di quel pranzo con persone estranee al piccolo gruppo, che continuava a rimandarlo. La spaventava un po', del resto, per i motivi che, esagerandoli, andava proclamando, sebbene per un altro verso la affascinasse, per ragioni di snobismo che preferiva tacere. Per metà, dunque, era sincera, reputando il piccolo clan qualcosa di unico al mondo, uno di quei complessi per la cui costituzione occorrono secoli, tremava al pensiero di vedervi intrufolati quei provinciali ignari della tetralogia e dei maestri, che non avrebbero saputo sostenere la loro parte nel concerto della conversazione generale ed erano capaci, piombando in casa sua, di distruggere uno dei famosi mercoledì, capolavori incomparabili e fragili, simili a quei vetri di Venezia che basta una nota falsa per mandare in frantumi. Per di più, devono essere quanto c'è di più anti e militaristi, aveva detto il signor Verdurin. Quanto a questo, francamente, me ne importa ben poco, e anche troppo che si parla di questa storia, aveva risposto Madame Verdurin, la quale, sinceramente, dreyfusista, avrebbe voluto tuttavia trovare nel predominio del suo salotto dreyfusista una qualche ricompensa mondana. Ora, il dreyfusismo trionfava politicamente, ma non mondanamente. Laborie, Renac, Picard, Zola continuavano ad essere, per quelli del gran mondo, dei traditori che potevano solo tenerli lontani dal piccolo clan. Così, dopo quell'incursione nella politica, Madame Verdurin teneva a rientrare nell'arte. D'altra parte, Dandy o Debussy non erano nell'affare dalla parte sbagliata. Per quel che riguarda l'affare, aggiunse la padrona, basterà che li mettiamo accanto a Brichot. L'universitario, infatti, era il solo tra i fedeli ad aver preso posizione per lo Stato Maggiore, cosa che l'aveva fatto parecchio scadere nella stima di Madame Verdurin. Non siamo mica obbligati a parlare in eterno dell'affare Dreyfus. No, il fatto è che i Cambremer mi annoiano. Quanto ai fedeli, eccitati dal desiderio inconfessato di conoscere i Cambremer e tuttavia succubi della noia che Madame Verdurin fingeva di provare all'idea di riceverli, riprendevano ogni giorno, parlando con lei, i vili argomenti da lei stessa addotti in favore dell'invito e si sforzavano di renderli irresistibili. «Decidetevi una buona volta», ripeteva Cotard, «e vi diminuiranno l'affitto, pagheranno loro il giardiniere, potrete usufruire del prato. Tutto questo val bene la noia d'una serata». «Lo dico solo per voi», aggiungeva, sebbene avesse avuto il cuore in subbuglio una volta che sulla carrozza di Madame Verdurin aveva incrociato per la strada quella della vecchia Madame de Cambremer e, più ancora, si sentisse umiliato di fronte al personale della ferrovia ogni volta che alla stazione veniva a trovarsi accanto al marchese. Dal canto loro, i Cambremer, troppo lontani dal movimento mondano per sospettare che certe donne eleganti parlavano con qualche considerazione di Madame Verdurin, la immaginavano come una persona che poteva frequentare solo degli artistoidi, che non era forse neanche legalmente sposata e che quanto a gente con una nascita non avrebbe mai conosciuto altri che loro. Si erano rassegnati a pranzare da lei solo per avere buoni rapporti con un'inquilina sul cui ritorno speravano di poter contare per parecchie stagioni, soprattutto da quando, il mese prima, avevano saputo che aveva ereditato un bel po' di milioni. In silenzio e senza scherzi di cattivo gusto, essi si preparavano al giorno fatale. I fedeli ormai non ci speravano più. Troppe volte Madame Verduran ne aveva fissato di fronte a loro la data, per poi puntualmente modificarla. Queste finte risoluzioni avevano per scopo non solo di ostentare la noia causatale da quel pranzo, ma di tenere col fiato sospeso i membri del piccolo gruppo che abitavano nei dintorni ed erano a volte inclini a staccare. Non perché la padrona avesse indovinato che il gran giorno riusciva loro non meno attraente che a lei, ma perché, avendoli persuasi che quel pranzo era per lei la più terribile delle corvée, poteva far appello alla loro devozione. «Non mi lascerete sola tu per tu con quei tipi? Bisogna che siamo in tanti, invece, per sopportare la noia. Naturalmente non potremo parlare di niente che ci interessi, sarà un mercoledì sprecato. Pazienza!» «In effetti», riprese Brichot rivolgendosi a me, «credo che Madame Verduran, che è molto intelligente e conferisce molta grazia all'elaborazione dei suoi mercoledì, tenesse ben poco a ricevere quei signorotti di gran lignaggio, ma di scarso spirito. Non si è potuta decidere a invitare la vecchia marchesa, ma si è rassegnata al figlio e alla nuora. Ah? Vedremo la marchesa di Cambremer?» disse Cottard, con un sorriso in cui gli parve di dover mettere un pizzico di licenziosità e di morivodage, pur ignorando se Madame de Cambremer fosse graziosa o no. Ma il titolo di marchesa risvegliava in lui immagini prestigiose e galanti. «Ah, la conosco», intervenne Ski, che l'aveva incontrata una volta mentre andava a passeggio con Madame Verduran. «Non la conoscerete in senso biblico», chiese il dottore, ricorrendo a una delle sue battute preferite, facendo scivolare uno sguardo torbido sotto gli occhiali a stringinaso. «È una donna intelligente», mi disse Ski. «Naturalmente», riprese, vedendo che non rispondevo e sottolineando con un sorriso ogni parola, «è intelligente fino a un certo punto. Manca di istruzione, è frivola, ma ha l'istinto delle cose belle. Starà zitta, ma non dirà mai una sciocchezza. E poi ha un bel colorito. Sarebbe un ritratto divertente da dipingere», aggiunse, socchiudendo gli occhi come se la vedesse in posa davanti a sé. Poiché pensavo esattamente il contrario di ciò che Ski esprimeva con tante sfumature, mi limitai a dire che era sorella d'un ingegnere molto distinto, il signor Legrandin. «Ecco, vedete», mi disse Brichot, «vi presenteranno a una bella donna e non si sa mai che cosa possa uscirne. Cleopatra non era nemmeno una gran dama, era una donnetta, la donnetta incosciente e terribile del nostro Meillac. E guardate un po' le conseguenze, non solo per quel grullo d'Antonio, ma per il mondo antico». «Mi hanno già presentato a Madame de Cambremer», risposi. «Ah, ma allora vi troverete in territorio amico». «Sarò ancora più felice di vederla», ripresi, «perché mi aveva promesso un libro dell'ex curato di Combré sui nomi di luogo di questa regione e potrò ricordarle la sua promessa. Mi interessa quel prete e anche le etimologie». «Non fidatevi troppo di quelle che suggerisce», mi ammonì Brichot. «Il libro che alla Raspellier c'è e che mi sono divertito a sfogliare non mi sembra un granché, è zeppo di errori. Ve ne darò un esempio. La parola brick entra nella formazione di una quantità di nomi di luogo dei dintorni. Il bravo ecclesiastico ha avuto l'idea discretamente strampalata che derivi da briga, altura, luogo fortificato. Lo vede già nelle popolazioni celtiche, lato Brigi, Nemeto Brigi, eccetera, e lo segue sin nei nomi come Brian, Brion, eccetera. Per riferirci al paese che abbiamo il piacere di attraversare insieme proprio adesso, Bricbeau significherebbe il bosco sull'altura, Bricville la casa sull'altura, Brickbeck, dove ci fermeremo fra un istante, prima d'arrivare a Menville, altura presso il ruscello. Ora non è affatto così. per la ragione che brick è l'antica parola norrena che designa molto semplicemente un ponte. Così come fleur, che il protetto di Madame de Cambremer si dà tanto da fare per ricollegare ora alle parole scandinave floi, flo, ora alle parole irlandesi e her, è invece senza ombra di dubbio il fjord dei danesi e significa porto.